Attenzione Spagna, Spagna, Coppa Italia, ecco! E chi è? Ebbè Antonio! Buonasera Marco! Certo, stavo pulendo baracchini qua, tutti bene impolverati, e ne sto cambiando uno al giorno per farli lavorare tutti, perché sono fermi da qualcuno anche da mesi, capito? Questo è quello senza smitter addirittura, e va tutto bene qua, vedi un po' 1, 2, 3. No, più che altro la modulazione, questo è un Intec 150M con altoparlante frontale, microfono è uno ZG M95, adesso tolgo il bip anche, sono sempre pomponi così. Se metti quella con la smitta avete una sorpresa, vedi? Va pompando? Ma infatti non sento quel RM sotto, sicuramente il segnale dovrebbe essere abbastanza alto. Vediamo se c'è Natalino l'ascolto. Natali, ci sei? Questo che appunta quando può. Tu indovina il perché? Il perché non senti quel RM sotto? Siamo ritornati alle solite. Guarda, o hai alzato l'antenna molto, o stai pompando perché sento una lieve saturazione, oppure tutte e due hai sia alzato l'antenna e sia pompando. No, il perché. Beh, il perché non sento QRM è perché si è forte di segnale, non c'è soffio sotto, di solito tu arrivi, quant'era, 9 e spiccioli, dai, adesso deve essere più alto. E poi ti voglio mettere a vedere, metti. Aspetta che lo attacco, metto quello che sto usando sempre, un attimino, Certo, e poi ti spiego il perché. E pompa pompa. Ci sono? Prova. Sì. Oh, e come mai non mi dicevo io qua? Ci ho combinato. Ah no, ecco, eccomi qua, sì. Aspetta che spengo l'altro, che se sbaglio mic brucio tutto. Prova un po'. Papa, quanto sta arrivando il segnale? 9 più 30. Qua non è mai arrivato a 9 più 30. Conta che questo è 9 più 30 è il fondo scala. E tu sei come può essere Natalino, come può essere il vicino qua, come si chiama? Carlo, capito? Tu sei Bubendi. No, provo a indovinare il perché. Non lo so, sei in un QTH di un'altra persona, hai messo la penna sul tetto, cosa ti dica? Ecco, visto che l'hai detto. Ma io l'ho detto all'inizio, ho detto o hai messo l'antenna molto più in alto, intendevo tipo tetto, roba del genere. Ascolta, prova nudo e crudo, senza niente, a vedere il segnale. Aspetta, proviamo a 2 watt, adesso passiamo un tastino. Com'è a 2 watt? Ah, eccolo là, 9,20 radio pulita. Quando c'è il trucco invece 9,30, per la radio è un pochino satura, capito? Tu? Gatta. La radio va bene, sì. Sì, a voglia, ascolta, che antenna hai messo sul tetto? Ringolema. Ma quella che avevi già? Sì. Sì, vabbè, io, tanto il mio caso personale, se proprio avessi dovuto metterla sul tetto l'avrei messa una volta, bene, per un'antenna anche superiore, non la ringo, avrei messo una 5 ottavi comunque, anche una Energy Mi, la Venom no, però una Energy forse isolata bene come l'abbiamo isolata noi, qua l'avrei messa. No, io ho tutta sigillata, ho fatto un lavoro, un gatto lavoro. Vabbè, buono, l'importante è tu puoi stazionare e le controllate a posto, sì, che ti copra almeno 120 canali, vabbè, che tipo 40 sotto, 40 normali e 40 sopra. Ah, ma così muovi. Eia, e uno sta uno allora, eia. Vabbè, se l'avete isolata bene, è buono. E così abbiamo fatto noi, perché un dirigente ha la stessa antenna e gli è andata male, o gli entrava acqua, o gli si è spezzata, o gli si è interrotto quel filettino, quella saldaturina tra la bobina e lo stilo, che è difficile da ripristinare perché va dentro, sotto, è difficile da spiegare. Capito? Ma chi c'è stata fatta un lavoro regolarante, ma con giorni di prova sono state neppure, sono fatto un lavoro. E conta che è un aringo, conta che è solo un aringo. Immagina se avessi messo una 5 ottavi tipo Mantova, Super Lem, eccetera, Sirio. Ma guarda che forse con la 5 ottavi senti più QRM, sotto invece sente la persona, però il QRM è basso, capito? Io sento, perché molti che hanno radiali attirano molto QRM, invece io no, io sento, il QRM non lo sento, capito? Io sento te giusto. No, qua ce n'è, e più che altro è propagazione. Allora ti spiego, quando non c'è QRM di notte fonda, qua segna 3, però perché questo è come l'FM500S, non so se l'ha mai provato, anche la senza di vero QRM segna 3, quel soffio di fondo segna 3, oggi c'è 5 perché c'è propagazione, c'è un bruttumi qua nei canali a fianco, capito? Quindi c'è roba in aria, ci sono segnali in aria, ecco. Guarda, io metto lo squelce perché quando c'è Cagnara di fondo è solo Cagnara, a meno che non chiami uno che proprio arriva bene, che si distingua dalla massa, e allora riesci a fare un DX, ecco. Ma si sente la differenza comunque da una bombera che è sopra il balcone a una antenna sul tetto? Sì, si sente, adesso fammi ricordare, io non mi ricordo bene come arrivavi prima, credo fossi intorno a 9, forse 9,5, però non so se eri attaccato o staccato, capito? Ma adesso c'è un abisso, adesso sei una station, vuol dire, stazione con antenna sul tetto, voglia. Naturalmente tu, questo smitter, cioè più di 9,30 non segna, però se avessi avuto il K che c'ha 9,60 in fondo scala ed è più preciso, magari saresti stato di più, magari 9,35 o 9,40, quello non lo posso sapere. Quindi il chilo te l'avrei tenuto solo per lo smitter, no, solo quello mi. Non è solo da, come si chiama? Da Carlo arriva a fondo scala. Luna e sole? Da Carlo dice che arriva con lo scala, tutte le tappe dice che segnano. Sì, Carlo poi c'ha lo smitter a LED, a cristalli liquidi, e cioè lì credo che la maggior parte delle stazioni di Sassari segnino quasi il fondo scala, però è buono, Carlo è molto più in alto anche, lui, tu anche da liscio sicuramente li hai il fondo scala, molto molto più in alto, dove lui è bellissima la vista, io invece ho tutta la collina di via Gorizia, via Prunicella che mi fa da schermo, capito, mi scherma tutto, sorso, tutto quella parte lì, anche Pro Torres mi copre, da Pro Torres verso destra tutto coperto, capito? E in banda laterale hai provato a chiamare, a fare qualche DX? No, ancora no. Sì, bisognerebbe provare sui canali soliti, no, quelli 555 lì, importante sentire, magari anche con lo spagnolo bene o male ci capiamo di più, capito? Se parli con i francesi, loro parlano in francese, per parlare con i francesi devi parlare in francese, loro non si abbassano a parlare neanche l'inglese. Già lo so, già, come ci sono fatti. Qua, vedo che sale, tutto a posto. Vabbè, adesso faccio un giro alla giostra, anche ricezione li uso, se non c'è un'anima li accendo e basta i baracchini, è importante che siano accesi, perché sennò si sciabideggiano a stare fermi, c'è poco da fare. Buonasera, buonasera. Buonasera a me. Beh, anche lui fondo scala, tutti in fondo scala in Oglia, va. Vai per Antonio. Ciao Antonio, buonasera e buonasera anche a Marco. Mi dai un controllo radio, Marco, fa la cortesia. Bella forte, bella bella forte. Vabbè, c'ho il volume alto io, sì, buona, per me è buona. Antonio? No, ma non è più in Oglia. quanto è il segnale da te, Marco V? Come ha detto Antonio, qua 9.30 il fotoscala, 9.30 sei tu, 9.30 è lui. Tutti, guarda, quelli locali 9.30 arrivano, più o meno. Quelli vicini, sto dicendo. È stato registrato un break, avanti. C'è Claudio QSL 5.9 qua alla mia stazione. Non so come sto arrivando lì da te, vai K. 9.10, radio 5. Bene, come arrivo a Muros? Antonio, ciao Chiodo, ben entrato, ben sentito dopo tanto. Antonio, prova nudo e crudo per il paragone, Antu. Sto scendo. Sì, sì. Minchia, ma cosa importa che arrivo a Muros? Allora, io sono Anima Delta, la Fedorcia, e mi sto arrivando 9.10 e Radio Super 5. Super 5 è a bomba, cioè arrivi benissimo qua a Sassari. Io non sono più a Sassari vecchio, sono qua a Fedorcia. Allora Chiodo, qua devi, in questo smitter che è secco, è tarato a 100 microvolt anziché a 50, sei Santiago 8, quindi vuol dire che sei Santiago 9 per un normale smitter, quindi rientra nella norma, dai, quindi Santiago 9 per te. Campa, finalmente ci risentiamo, capita, dopo l'avventura. Finalmente ci risentiamo, ti sento la bomba, qua arrivi la bomba, tutta la, un bio abita in periferia di Sassari, non so se lo sai, arrivi una fucilata. Antonio, prova a fare lo scatto. Per capire la resa pura dell'antenna, della sola antenna, del baracchino, no? E cosa fa il scatto? Sei sciarguivante? No, si sente. Scappa. Vabbè, dai, non lo vuol fare. Franco, riprendi. Questo è, le saluto Claudio. Ciao Claudio, buonasera e ben ascoltato. Buon querito, buon tutto, e ce la riascolta le prossime. Vai Marco, adesso come sto arrivando, meglio Marco? Meglio, io ti sentivo bene prima, ti sento bene adesso. Magari avrei cambiato radio, ma io non ho l'orecchio allenato. Anto, ti volevo dire, no, Nico, è inutile provare direttamente con... Fai i watt normali per capire la resa dell'antenna in distanza. Con lineare vabbè è troppo comodo, anch'io se no ti faccio la differenza, no? Di capire con e senza. Non è un lineare. Manco io, manco Franco ne ha vero fatto. Negativo. Io sto scendo con la radio sua. Ah vabbè, Franco è vicino, può essere pure me. Franco è abbastanza vicino, come può essere Luca del Monte. Ciao, sono contento, quindi un altro baracchino funziona, non questo, l'altro, ancora funziona. No, ma smitter, è perfetto, bello, non dà controlli, non si è obbligato a dare controlli con quell'altro baracchino. Perché c'è quella a LED. Io ho il Sommer Cap 23 canali, che è una pistoletta, va bene lo stesso. No, guarda, l'M150 Plus proprio non ha smitter, nemmeno a LED, perché ha l'altoparlante frontale fatto per la macchina o per il camion e non ci sarebbe proprio spazio per lo smitter. Questo invece è il presidente Taylor, piccolo, omologato, pochi watt, vabbè, giusto per la concessione, per essere nei limiti di legge, dai. Ho capito. Vabbè, io c'ho il Cobra, va bene lo stesso. Sì, a tu va bene comunque, dai. Non è poco, a Muros, quasi 9.20. Attaccato il libero, Non so che attaccato. No, a Muros. Attaccato a Muros. Ma ha detto se era agganciato quando stava chiamando, quando stava parlando con Claudio. Non era agganciato, no. Della modulazione si capisce, capisce a me. Beh, grazie, ce l'avevo attenuato io, era attenuato 7, cioè attenuato 7, se attenuatore era 9.35 qua. Cioè, ma ti vai a dire che non era attaccato. Ah, era scherzato. Vai, altro vicino che lo rifate prima di te. Oh, il bello del 747 per esempio, oppure di quello che ho io, che tu attacchi e la modulazione è limpidissima, non ti rendi conto che sei attaccato, cioè, gli altri non si rendono conto che sei attaccato. Perché vanno bene quei lineari lì, mi sa che non li fanno più Marco quei lineari. Allora, il 747, che io sappia, era fuori catalogo della CTA, della Midland, no? Però se tu hai visto i nuovi, gli ultimi 747, dentro c'è proprio scritto sulla scheda RM Italy KL203, quello che ho io. Perché te, la Midland si mette nella buccia, no, è il nome, però dentro è un RM Italy. E ho capito so cosa fare tutti sulla 780 io. E allora aspetta, guarda, io mi basavo sempre sul prezzo eBay di questo, come si chiamava il venditore? Porca miseria. Vabbè, c'è un venditore che ce li ha quasi tutti quelli dell'RM Italy. Io quando l'ho preso io costava 50 euro spedito. Adesso costa già un po' di più, tipo sì, 60 o 65 più 10 di spedizione, fatelo conto. 75 euro di piene. Quanti watt è quello di 100 watt, che poi 100 non te lo date, ne darà 80, dai. Sì, infatti io lo penso che io lo piloto con 4, circa 4 modulati. E ne dà credo una sessantina, 65, cosa del genere, però poi io ho il filtro per ridurre le armoniche, le spurie, no? Per sicurezza, per eccesso di prudenza, già lo sai come sono i vicini, no? E quindi dal filtro me ne mangio un po', ne escono 50 tondi tondi con 4 watt. Eh beh sì, in definitiva è così. Però vedi, il bello che è, quello che ti toglie, cioè il watt che ti si mangia, sono tutte spurie armoniche che andrebbero magari a far casino su frequenze più alte, no? Già lo sai. Eh beh sì, in definitiva è così. Vai a tua. Ehi, accattagata. Comunque sono contento, va. Adesso ho avuto un riscontro in lontananza molto buono. Anto, sono sicuro che se facciamo la gara con gli stessi watt mi passi, lo sai, perché scommetto che sei più aperto tu. Non lo so. Fa pensare che ti sono guardato da punto d'ora oggi. Aspetta, non ho capito bene Anto, non è limpida limpida, dai. Ho detto, non oso pensare, lo sai perché? Perché c'è una parete che mi rimuova. Non oso pensare quando arrivo a Porto Torres. Sì, a Porto Torres poi è facile, sul 12 a una certa ora entrano, poi chiede, poi ci hanno smettere anche buoni, come si dice, Gavino c'ha uno smitter buono, quindi può dare un controllo anche abbastanza fedele, capito, reale. Sì, se entrano, ho fatto dare un controllo, se entrano. Ma ci provo a provare un Cobra, quello malogato come arrivo da te, Marco. Adesso prova. Beh, questo mi pare che da 2 watt. Sì, va bene, se per il segnale più qua di più non va, 1,30, tu Antonio, Natalino, tutti 1,30. Va bene, lo voglio provare perché mi dite un po' fermo, a vedere se funziona, non so neanche se funziona, messa giù. Però Franco mi tocca il DB, mi tocca proprio. Tu sei 9,30, Franco invece è sul DB. E quindi siamo soddisfatti, dai, a voglia, adesso già ti può divertire, non ci sono problemi di antenne basse eccetera, poi se l'avete isolata bene anche, guarda, il punto debole da me è stato dove lo stiro si innesta in quell'anello di plastica nero che fa da, non isolatore, c'ha un altro nome, è calcolatomi proprio. E lì si stava sfilando lo stilo da quell'anello e a giù mai lo stilo era tenuto solo dalla molla, rischiava di cadere giù in strada lo stilo. Ma che cosa? Aspetta, avete parlato in due. Vai Franco. Come ho detto, come esce? Prova, telefono un attimo. È buono. Questo bidone come sta andando tu? Qui c'è un pezzo di bidone di apparecchio. Va bene. Mio figlio. Senza antenna, porca miseria. Bene va. Sì, senza antenna. Sì, sì. Radio va bene. Io quello andava bene. Sì, ce l'avevo un po' di tempo ferma, volevo vedere se stava funzionando bene. Funziona, tranquillo. Il segnale sarà più basso, però cosa mi ha fatto? Questa da 3 watt, Antu. Ma cosa che è più basso? Più basso tanto bambino. non mi piace. Ah, ti piace più vinto? È meglio. Andava meglio. Sì, no, io per il momento mi tengo questo, poi vediamo di più là, quando avrà già travaglio di comprarne uno più buono. Ma quello che c'è tu, è una bella radio quella lì. Si può fare. E andava, ma non c'è più anche il coso, il Midland, vendo tutto. Ma cosa Midland, chi cioè? Ma tu ci avevi il micro sempre su per stare a punto. Ah sì, ne ho uno dentro l'armadio ma non lo uso, non mi interessa usarlo. Il Midland ci avevi, il gente non me ne ammetto che modello era tu? 87. Sì. È andato gratis? Sì. Quello funzionava bene lo stesso? Sì. Funziona. E anche là come funzionava la testa, ma ti piace? Sì, un po' ho capito, forse ho capito di chi era quella radio. Sì, un po', però già funzionava. Ah, questo è più bello. Aspetta, l'avrei pesato a 9, no? Mi pesa a 2. Uguale, mi arriva a 9,5, mi arriva. Chi si può fare i volti? Chi si fa nei lineari grossi? Certo. Ah, si sta andando a vedere. Già lo prende un po', ma non è a livello di chi da chi vira ti pigliava poco un'ondetta. Anche questo, anche questa qui, no. È per quello che più che altro sto facendo prima scelta io, perché non ho poco QRM questa, hai capito? Perché non c'hanno radiali. Sono fatti di casino. Andavano bene. Si prende pure dalla radio, secondo che baracchino tratti, ne vedi poco, poi. Io ti faccio una foto qua, ce l'ho una, ma la pena è uno. Buonasera Franco. Buonasera Franco. Antonio, sono Carlo. Ciao Carlo, ho sbagliato nome. Beh, ancora provando stai. Carlo, buonasera, ben entrato, dopo di tanto ci si riascolta. E io amico Antonio ci siamo sentiti dopo pranzo, che stava facendo delle prove. E niente, vi stavo ascoltando un attimino, io lo stesso ho un CRT e in effetti c'è l'RF gain, ti regoli quello, il QRM non te ne entra poco e niente, dai se vuoi, metti lo squelch a zero, capito, e ti regoli quello e va benissimo. Infatti, ma se sei l'altra volta alla GBC a fare se c'era quel 747, non ne hanno più in vendita di quegli amplificatori. 747, ma ti serve? Me ne serviva uno da mettere in macchina perché quello vecchio non va bene, è troppo forte, non voglio togliere. Mi butta a terra troppo la batteria. E io ce l'ho quello piccolo, mi sa che è il 747, quello dell'Alan. Quello io ho il B300 in macchina, ma la batteria ogni volta mi sta dando problemi, non vorrei di spaccare la batteria, se no ogni volta 120-130 di batteria è un casino. No, così non va bene, no. No, ma infatti non conviene, quando ne hai uno che massimo ti dà una settantina, un'ottantina in macchina, ce n'è anche troppo. Poi le grandi prestazioni se le vuoi a casa con l'antenna grande eccetera, ti metti un bel alimentatore con tanti ampere e lì tranquillo, se no davvero davvero la batteria te la manda a KO in poco tempo. Ecco, Shell, fate così, oh. È così in definitiva. Quello che c'ho è troppo grosso, ma non lo voglio mettere neanche in macchina perché a casa non ne uso io, non mi serve a casa, capito? Mi serviva giusto per quando vado a pescare nella zona di Stintino, quelle zone lì, Badisi, capito? Per darmi un aiutino, ma questo, quello che c'ho è forte, pompa parecchio, ma no. Non fa, purtroppo le batterie te le mangia, devi mettere un'altra batteria a parte. Ho capito, sì. No, io tanto ne ho anche un altro, se vuoi ti do quello che c'ho io, io non mi ricordo quanto l'avevo preso di seconda mano, non è nuovo, io l'avevo preso, mi sa che era un amico di Antonio, quello che lavorava in Viale Porto Torre, so lavora dove c'è il vetro, mi sa, forse Antonio se lo ricorda. Ah sì, ho capito. Va bene, se non lo so, se me lo vuoi dare non c'è problema, mi ci vuole quanto lo stai dando. Sì, già ci mettiamo d'accordo. Non ho idea, io mi pare che l'avessi preso per 50, mi dai 30 euro e lo provi e siamo a posto. Va bene, non ci sono problemi. Arrivi, senti, il mio numero non ce l'avevi. Non me lo ricordo se il tuo ce l'ho, ma al limite o te lo passa Antonio, se ce l'ha il mio, su WhatsApp, e così poi tu mi mandi un messaggio e mi scrivi il nome, così mi segno il tuo, Fra. Ma io te lo posso dare anche qua, non ho problemi, segnatelo. Aspetta che me lo scrivo direttamente sul telefono. Ecco, mi fa uno squillo e memorizzo il tuo. Dimmelo, dai. 340-96-27595, Franco. Te lo sto mandando io. Aspetta che ti faccio uno squillo. Aspetta che me lo prendo il telefono. Vabbè, tu aspetta, va mai, ve l'ho aiutato, non tanto più problema. Aspetta, fammelo squillo. L'hai ricevuto, Fra? Prende il nuovo di Grazino che ci è andato a parlare. Ora ci calmo. Aspetta che sono al telefono con Franco, sto arrivando. Eccoci qua. Mi stavo memorizzando il numero di Franco. Ti ho sentito che ce l'avevi anche tu, se no infatti tu prima me l'ha dato e così. No, io tanto c'ero quel 747, ma diciamo l'avrò usato un paio di mesetti e basta, e poi come avevo cambiato radio, avevo tolto tutto, e qua sto uscendo liscio solo con quello che ha la radio. Cosa c'è, il bambino con te? Il tempo suo è... Il tempo suo sì. Stiamo migliorando attorno a Tassassa, devo fare una cosa. Va bene, dai, tanto io stasera sono a casa, poi quando rientri dovresti trovarmi. Se faccio una propagazione che è una cosa pazzesca. E io qua mi ho regolato l'RFG in quella roba lì, e quindi non mi entrano disturbi, solo i segnali alti, capito? Quindi la radio è silenziosa, silenziosa. Adesso è un po' scendendo, ma prima c'era uno spagnolo, io tutto misciato era, non si comprendeva nulla. E l'antenna tua qual era, Anto, quella sul tetto? Ringo. La Ringo, e già va bene quella lì. Vabbè, dai, Anto, anche io mi metto a fare qualcosina, già sono a casa, dai, nel caso ci sentiamo più tardi allora. Papa, la cosa più buona è che sono libero da ostacoli, non c'ho nulla per dare a palle. E infatti già arriva bello forte il segnale. Papa, saranno ancora più soddisfazione. Perché lì comunque già è una zona bella aperta, capito? Cosa che invece dove eri prima magari eri in basso, c'erano zone più alte che ti potevano coprire, invece lì sei tutto aperto. Lo so. Quindi vai lontano lì, perché quella è una bella zona. Non me l'aspettavo comunque a muro, scusi, forte. Sicuramente se si fa sentire Claudio, sentirei anche lui da Muros adesso. Qua arrivava benissimo, era 9:10 qualcosa era. Io ne arrivavo qua 9:20, ma chiedete, lui non c'ha una radio come la mia, lui c'ha un K. Ho capito. Va bene, bene Meda, mi devo liberare adesso un attimo, che c'è una cosetta che mi sono ricordato, che c'è l'idraulico nell'appartamento di fronte e devo andare a chiedere una cosa. Dai, ci sentiamo più tardi nel caso, Antu. Ehi, KK, poi non c'è problema. Ma Franco, ci sei? Franco? E chi è? Chi è avanti? Attenzione, 10, K. C'è rimasto qualcuno? 10? Io ci sono. Certo, ho sbagliato canale. No, era il telefono, ordini superiori, devo uscire, fare una commissione, quasi urgente. No, urgente no, ma non la voglio togliere di mezzo. Dove eravamo rimasti? Ho detto, allora siamo contenti? Felicissimo. Naturalmente ricordati, per fare le prove in distanza, fai tutte e due le modalità. Capito? Per capire qual è la resa dell'antenna da sola, con il baracchino nudo e crudo l'antenna, capito? E poi tutte e due, no? Con e senza, per avere un'idea, mi capito? Ma ha migliorato, prima ero in accagliero, adesso sono in slab, ha migliorato qualcosa? No, è sempre saturetta, capibile ma un po' saturetta, cioè si sente che non è liscia. Non so che dire, non so che fare, dai. Ma qual è quello? Che linea, che cos'è? Il coso è 3600. Il? 3600 Superstar. No, no, l'aiutino. No, quello è aiutino, no, ok. Ah, vabbè, ok. No, per capire se c'era una valvola o un transistor. L'unica cosa che la posso mettere a pochissimi watt. Guarda, va meglio adesso. Vabbè, adesso la differenza c'è. Vabbè, poi me lo scrivi in privato, dai, se non puoi dirlo qua. No, volevo capire se era una valvola o un transistor, capito? Tutto lì, la curiosità, perché la valvola non dovrebbe saturare, a meno che non gli spari dentro troppi watt. Tutto lì. No, che valvola. E poi non c'è nessun altro. C'era Franco, chi altri c'era? No, vabbè, chi aveva già chiuso. Franco c'era. Sono curioso di capire quando mi passo rosso. Sono curioso di capire quando arrivo. Marco, chi è avanti? Non è a valvole, Antonio, c'è tubo catodico direttamente. Ma fatta la scenda. Ah, Luca Flipper. Ciao Marco, ben riprendete. Sto mica facendo scoppiare la radio. Cioè, Luca Flipper entra, 9:10, 9:15 modulato, Antonio è in conto, sul class ormai. Si è esumato, Piano. Ui, Giulio. Siamo tu, riesumato di anno? 9 più 25, radio 5, a bomba. Vabbè, la tua radio è strana comunque, vabbè, comunque già ti capisco bene. Ciao Marco, e ciao Luca, za. Ciao Giulio, ben sentito. Sì, io praticamente ogni tanto scongelo un baracchino e lo faccio girare per vedere se funziona ancora. Questo vabbè è il solito, l'altro ce l'ho a fianco. Tutti omologati sono poi questi qua. Non valgono lo schiaffo, c'hanno pochi watt, 3 watt, 3 mezzo modulati, capito? Va bene. Beh, secondo me è entrato Giulio almeno e così vado a fare questa commissione. Ciao Luca Flipper, aspetta Antonio, Luca, vabbè sì, non c'era nessun altro. Antonio, riprendi, quelli per me e ci sentiamo, ciao. Ehi AK, ciao, ce la risentiamo. E me Giulio. Ciao a tutti. ciao Lu, ciao Marco. Vi ho sentito e sono entrato a salutarvi. E poi vi faccio un giretto, così almeno passo il tempo. Ecco, sei 9.25, però è oltre 9.25, sì, oltre. Ah, ma mi sei arrivato, ma no, mi stai arrivando. Ok. Vabbè, insomma, non è importanza, andiamo bene lo stesso. Non c'è problema, tu. Anche tu già stai arrivando bene il segnale. La radio che mi sembra un pochino non molto chiara, ecco. Ma fa staccare. Sì, è chiaro. Chiude il portellone. Capito. In auto. Filippo, lascia. Se lui stacca esce bene, non c'è problema. Ma cazzo, ma bisogna iniziare ad attaccare i di lineare, non oggi compreso. Ma io non ho un lineare attaccato. Allora stai facendo male, mi dispiace. Chi c'è? Anche quel cuoco di Lazzarino. Di Marco c'è. Ciao Marco, ben sentito. Va bene ora. Vabbè, ho capito, ciao, ci sentiamo, ciao a tutti, chiudo. Ciao, ciao. Giulio, ci sentiamo alle prossime. Scappa, guarda se va meglio ora. Ci ha passato un bel. Molto meglio. Sì, ciao Natalia, volevo fare la battuta prima di uscire, dai. E così metto anche la moto dentro. Buonasera a tutti, ciao. Ciao, ciao Marco. Buon tutto, dai, anche io me ne faccio in QRT, sentiamo alle prossime. Comunque non c'era bisogno di Atari Assassari. Attenzione, 10, gamba. Attenzione, Antonio. Hola. Mi ascolti? Certo che ti ascolto. Cosa c'è, Gabriele? Vieni con la mamma, vieni. Mamma mia, ci sei, pensavo che ci fosse altra gente, eh. Solo da solo sì. No, papà, c'è un'altra gente. Avanti se c'è qualcuno all'ascolto, cambio. Papà, sono entrati, adesso non sono andati in via. Vabbè, comunque, sta arrivando bene, tanto non ti preoccupare. Ma così male esco, non penso. Che cosa? Scappa, no, aspetta, non penso che esca così male. Se ti detto che esci bene non esci male, no? Se tu ti avresti esci male. Certo che stai uscendo bene. Non lo so, lontananza, però qua arrivi benissimo. Lontananza arrivo morto. Provato l'hai? Sì. Arrivo con 9.20 a Muros. No. Vediamo un po' se c'è. Muros ci sei. Vieni su. Vabbè, comunque. Io ho acceso perché anche deve scaldare questo apparecchio, se no mi si rovinano. Questo qui era un po' che non lo stavo usando sempre l'altro e adesso lo faccio scaldare un po' perché sennò mi partono io con dei saturi. Ma tu adesso che apparecchi c'hai tu? Posso passare? Solo quello c'hai? Eglia, mi sono messo un botto per il mondo, un po' qua, con la radio, adesso per fare è fatta, non c'ho niente. Dopo il Rui, se te lo compri? Rui, molla, è un capo. Nuovo. Lo sto vedendo perché non ci sta qua. Ho messo altri apparecchi, quindi non ci sta più il Rui. No. Vabbè. Io ho chiesto, non è che sono obbligato. Io solo ho chiesto perché magari avendo solo un apparecchio, magari desideri una stazione base. Ehi, cosa? Ma tu non ci mai visto là? Sì, è grande, grande. Sì, ma è illuminato, mai visto là, è acceso. Sì, l'ho visto. È una bellezza, è bellissimo apparecchio. Anche come estetica è bello, anche se è antico di quelli vecchi. Perché di chi è antico mi dà fai che babba via, non mi piace di nulla. Ma questo è il Galaxy, sono belli. Sono bellissimi. Tu l'hai avuto in gara, se l'hai dato il cazzo, era così bello. Sì, in quel periodo, e non è colpa mia. Ah, l'ha dato tuo padre. E allora anche io l'ho dato. Quello lì era il mio, lo sai, ed era arrivato al continente, l'ho veduto io a Giuseppe. Sì. Quanti ne ho avuti io, gara? Ce ne avrò avuto sì o sì. Ah, ma chi è che vuole entrare? Avanti. Era qualcuno che voleva entrare. Scusate, lui ero in banda laterale. Ciao ragazzi. Ah, e allora, come va? Buonasera. Buonasera a lei. E a chi andava a segnare? Avanti. Oh, meglio qua adesso. Eh sì. Ehi, ha pensato l'antenna sul tetto, Antonio, tutto euforico. Sa anche carico sei? No, a parla. Sì, 9.30, spaccato. Ehi, a vabbè. Ah, bianca abbondante, sì. Questo mi ha fatto vecchie origini. Quasi, dai. Forse prima aveva ancora più forte, ma eri più vicino prima, giusto? O sempre lì eri? No, tutto, io. Fate i bravi. Sempre, ma cosa stai usando? 747? Buono, partito Gianni. Parte buono, parte. Cazzo, mi sblatteri pure, un canale. Contento, eh. E io, Antonio, furico, cazzo. Mi ha telefonato gridando, yuhi! Guarda a vedere, Nita, adesso scendo a tre vate, com'è? Sei forte. La radio ha migliorato, è più chiara, però il segnale è sempre forte. Sei forte. Ma sono fatti la tucci, hanno... Adesso sono a tre vate, proprio uno spicciolo, Va bene? Alla grande, ciao Lu. Buonasera a tutti, io meglio arrivo a tu, ho sempre uguale. Avevo capito. Se arrivo meglio, ho sempre uguale. A fondo scala, sì. E abbiamo migliorato tutti anche nei suoi confronti, dai. E beh, anche la recensione migliora. Solo che io una volta messa l'antenna me ne avrei messo una di lusso, di quelle che poi non devi più toccare. Vabbè, dai, comunque già va bene. Ah, tutti i dini, di giampa. Va bene, per il momento va bene, dai. Adesso aspettiamo l'inverno, vediamo come si comporta. E c'è una radio fantastica oggi, è chiara chiara proprio. Ma fa gubba, eh. No. Facendo girare per lo tuo smetto. Ehi, arrivi tra il più e il 3. Per tu 30. Già va bene. Io ero lì vicino alla tua, sistemando un'antenna, TV. Sistemata. Stiamo che contento, Gaio, a tu paga si abita. C'è problema. Inauguriamo l'antenna. Oh, yeah. Quando vuoi per quella loro vieni che ti faccio vedere l'albero, così quando poi ti serve lo prendi, vai lo prendi. Sì, io dai, già te lo faccio vedere. Una bella faccio. Gappa. E allora lui, che te mi contas? Mi c'è da fare un'oretta, 20 euro. Oh yeah. Io sono qui sempre assistente di Magicia Serranda. Ancora così. Già, adesso c'ho anche la corda nuova, adesso c'è da cambiare la corda, c'ho anche la corda da cambiare, senza dubbio. Adesso vediamo già, ci possiamo organizzare domani, no non è un mercoledì. Sentiamoci, chiamami. E poi c'è un salto, tanto già sono dietro la macchina. No, la corda lui l'avevi cambiata, è nuova, sicuramente la carica della molla c'è, perché praticamente alza e abbassa, però rimane tutta quanta parata. Ah, bisogna tirare la molla allora. Sarà cambiare la molla. No, forse vuole tirata, buh. Ma se prima funzionava, adesso non funziona più, vuol dire che si è sganciato, si è rotta, buh. Ma quando l'avevo sistemato io è sempre, no? Eia. Ah, ho capito, un po' strano. Vabbè, lo vediamo, non c'è problema, diamo un'occhiata. Ragazzi, al limite ci sentiamo dopo, ok? Ah, andalo, te ne stai a te, ma va finta la guidinami, buh. No, devo andare a fare il coso, come si dice? Guarda a fare le guide, se non sarei rimasto. sta facendo? Ma le sta facendo privato? No, no, no, no. A scuola guida oggi. Ah, ok, vabbè. Fino a di una battetta che ti giri. Avanti, fra. Vabbè, prima mi sblatta la 40 canali e poi se ne va. Boh. Ciao Anto, alla prossima allora. Ciao, ciao, va, ci sentiamo. Ciao, ciao, Luca. Luca. Attimino, sto sistemando il letto, dai, arrivo subito. Riprendete. Beh, già. Oh, mi sono fatto una dormita stasera, mi sono alzato alle 5 meno un quarto. Mi sono svegliato perché c'avevo i piedi ghiacciati, ero nel divano guardando il televisore e mi sono proprio abbioccato come una pietra. Anch'io, cioè, volevo dormire, invece poi mi hanno telefonato, guarda che c'è un po' d'olio, sono andato a comprare un po' d'olio, questo è sceso in campagna, me l'ho travasato, quindi niente, niente riposo. Anch'io oggi sono uscito presto, che era a Tempio, anzi dopo Tempio, eravamo a Nucchis. Ma andate col mezzo vostro? No, no, con la... Poi sto guidando anche io oggi, col camioncino dell'azienda. Ah, ho capito. Vabbè. Purtroppo, lavoro e lavoro. Vabbè, molte volte, all'una meno un quarto, quando me ne stavo per andare, un viaggio a Cagliari e via. E dovevo partire. Poi, così è il lavoro, purtroppo. Poi Cagliari, minchia, Cagliari lontano. A me poi non piace più guidare. Ma anche a me adesso, prima mi piaceva, ma adesso non è che mi piace. Già guido, ma non è che era più una passione come prima. E a prendere un frigorifero di quelli lunghi lunghi che sbuffava dal camion, qua, se mi fermavano mi arrestavano il giorno. C'avevo tutta la tubazione che usciva fuori dal telone e l'ho legata agli specchietti, con il nastro l'ho lastrata agli specchietti perché erano dei tubi di rame lunghi lunghi per piazzare questo frigorifero. Questi tubi tra l'altro li devo portare alla costa, che gli hanno chiesto una cortesia, il mio principale, che visto che stavo andando se mi faceva ritirare questa tubazione, e sono dovuto andare prima alla costa e poi portare il frigorifero a Stintino. Quando sono tornato da Cagliari sono dovuto andare a Stintino, sono stato sì la tarde, sì la tarde, ho finito di piazzare i frigoriferi, c'era stata mezzanotte e mezza, una cosa del genere. Quindi i tubi di rame, quei tubi dove vanno dal compressore ai banchi frigo? Sì, quei tubi lì sì. Proseguono lateralmente dalla macchina? Allora, praticamente ho dovuto aprire il telone davanti, di lato, farli uscire fuori e legarli allo specchietto retrovisore per non muoversi, legarli con... e sbucavano anche un pezzo dietro. Immaginati quanto erano lunghi. Ma l'importante è che non sporcano molto lateralmente, che sono pericolosi. Una volta un cugino aveva un tubo, due tubi PVC, no? Li ha messi dentro la macchina e usciva dal finestrino. Beh, neanche a fare la posta, era un incrocio lì a Ossi. E c'è sto ragazzino e non lo prende col tubo, minchia. Lo fa il casino che ha fatto, gli hanno fatto. C'è un ragazzino a piedi. Non mi ricordo se fosse in bicicletta o in moto, boh. E comunque ha buttato giù col tubo. Sono pericolosi. No, ma io infatti l'ho fatto sporgere da davanti più che altro perché a me non lo vedevo, capito? L'ho fatto sporgere. Anche il frigorifero un po' sporgeva, era di quelli lunghi. Io ci avevo un M40, quindi ti puoi immaginare. Mi ha attento, perché poi l'assicurazione non ha pagato, capito? E quindi ci ha dovuto rimettere tutto di tasca, è stato anni che pagava i danni a questo ragazzino. Figurati. Ma perché non ha pagato? Perché non era per causa loro, che per causa del mezzo, era per causa di cose che ha fatto lui. Sì, la colpa l'ha data lui ha messo questa roba fuori sacco, non capisco, non puoi fare sporgere niente lateralmente. Può sporgere, mi sembra, un 30% dietro, ma ci vuole il cartello, per me prima era così. Davanti non può sporgere niente, né lateralmente né oltre il cofano. Sì, io già ce l'ho. Io sono tornato da Cagliari, poi ce l'ho arrivata alla costa, lì al quadrato, per scaricati. Aspetta che lo suono il campanello. Luca, l'hai fatto il letto? Franco, chi è? Natalino? Aspetta un attimo, mi sta innescando qualcosa. Infatti no, non è che ti capisco. Ho capito che sei tu, però stai innescando di brutto. Qualche altra roba accesa c'hai? No, non ho niente acceso. Abbassa allora, abbassa qualcosa, bu. Abbassa tutto, Natali. Ciao Franco. Vabbè Carlo, come va? Non c'è male, tu Fra. Scusi, dai, andiamo avanti. Sempre reparto geriatrico aperto. Andiamo avanti, Carle. E tu? E io sempre là, in quel posto di perdizione. Sempre all'aeroporto, andando e ritornando. Oh, sono rientrato, eh. Ciao Carlo, ciao Natalino. Ciao Luca. Ma mi senti? Sì, Carlo, sì, ci arrivo ancora. A voglia, Luca. Andavè, avanti, Natalino, che se ne scendi? Aspetta che sto innescando. Sì, sta innescando ancora. E una cosa di bello c'è, il mio lavoro è che non sono, come si dice, sedentario. Vado sempre da una parte all'altra, Alghero, Sorso, Palau, Stintino, Stintino, beh, Tempio, cose vai, ma com'er. Ho capito, e in effetti quando ti muovi cambi un po', è la cosa migliore, invece quando sei sedentario ti annoi di più col lavoro. Ecco, poi così, cambi anche colleghi, vedi colleghi nuovi, che non vedi più da qualche mese. No, va bene così, dai, intanto facciamo un gemellaggio con i colleghi di Macomera, di Tempio, anzi proprio a Tempio non c'è rimasto più nessuno. In una squadra che erano una ventina ci è rimasto solo un collega lì. Ho capito. Natalino, l'hai tolto l'innesco? Penso di sì. Adesso va bene, lo senti bene, Fra? Così, la radio non è chiara, un po' troppo amplificata forse. Abbassa ancora qualcosa. Guarda che sto uscendo con 2 watt, con cosa cavolo devo abbassare? Non posso abbassare nulla. Tipo che apprezzo sempre la televisione, amico, e cose così. Se puoi abbassare l'amplificazione del microfono, il guadagno. Qua così per meglio va. Parla, che avete parlato in 2 forse. Guarda a vedere 1, 2, 3. Va meglio, per me va meglio. C'è il telefono, il televisore basso, però intanto questo microfono è molto sensibile e se lo becca. Si sente ancora forte la televisione, ha una capsula molto sensibile. E allora aspetta. Guarda, ho passato a 1. Aumenta ancora, appena. Qua così bene va. Non c'è una via di mezzo, passi dalla radio bassa alla radio fortissima. E cosa vuoi che ti dica? Vabbè dai, adesso quant'è? A 2? A 2. Guarda, 1,5, se riesci a mettere 1,5. Adesso è 1,5. Lascialo qui, dai, va benissimo. Come va Natali? Come vuoi che vada? Come i presucci, che diceva così, non me la metto nemmeno. Oh signor, l'altro giorno ci siamo divertiti in banda laterale, di Bilubra. Con la Scandinavia, era in contatto diretto Natalino. Avanti Carlo. Quindi eravate in banda laterale e io non stavo, avevo tante cose da fare eccetera, ultimamente non stavo più entrando neanche in quelle bande là, capito? E così piano piano adesso, come è arrivata diciamo la stagione invernale, cambio di orario, magari stai più a casa e fa buio, alle 5 è già buio praticamente, è uno schifo questo orario, con l'altro riuscivo a fare tante cose, invece con questo non lo so perché l'hanno riadottato, dicevano che saremmo passati definitivamente all'ora legale, invece niente, si è ritornati con questo schifo di orario e ce lo dobbiamo portare così sino a fine marzo mi sa. Sono rientrato. Capa positivo. Neanche a me piace. Sì, eravamo. Natalino era in contatto, io sono entrato solo per salutarlo e basta. Sui canali alti, credo, oltre il 555, non ricordo la frequenza. Natalino l'ha segnata però. Avanti Gianni. E meglio, dai. Ciao Carlo, ciao Natalino, ciao Carlo, beh. Era un po' che non ci sentivamo adesso. Ciao Gianni, ti ho sentito prima e poi ho detto, sono entrato e te ne sei andato tu, ho detto, vuol dire che destino che non lo devo sentire Gianni, invece dai. Già, vedo che sei rientrato, sì, tanto tempo, ma diciamo è io che non avevo proprio tempo da neanche da accendere la radio, capito? E quindi niente, adesso il periodo invernale, qualche oretta così già ce la spasseremo. Beh, vabbè, hanno suonato al campanello, sono andato a rispondere, c'erano nipoti, va, non si è trattenuto molto, abbiamo dato una cosa e se n'è andato, sono rientrato per quello. E vabbè, dai, noi ti accettiamo sempre quando vieni, non c'è problema. Avanti Natalia. Ok, è entrato anche Luca, Ciao Gianni, buonasera. Che bella famiglia, zio. Ben sentito. Non merita tutto questo. Ma dopo già ci siamo divertiti io e Franco. Siamo stati una mezz'oretta parlando. Giulia. A Manzanile, amico. Allora devi mandare la questella a quel tipo. No, ne faccio queste le ma mi è passata tutta la fantasia di tutto, ogni tanto mi faccio qualche collegamento così, però non mando e non voglio queste le di nessuno, non me ne sbatte più nulla. Mi adesso mi ha telefonato un radiamatore di Alghero che vuole il 440 a fine mese, viene se rubiglia. E chi è? Lo conosciamo? Uno di Alghero è Il nome lo sai? Sì signore, Roberto si chiama. No, pensavo un altro nome, sempre con la R, ma Riccardo. No, negativo. Ma non c'è stato un momento. Luca! Luca!